Come succede spesso nel nostro mestiere, qualcuno ti segnala qualcosa. In questo caso avevo un conoscente che aveva la mamma che era ospitata nella stessa struttura. Questa persona mi mandò una mail dicendomi: guarda, mi è venuta a mancare Maria Silvia Spolato, è stato un personaggio eccezionale, è stata una protagonista per la lotta dei diritti civili negli anni 70. E poi mi dice: ma ti ricordi, era quella signora che girava per la città con queste borse piene di libri, di giornali? Tutti ce la ricordavamo. Ci è Questa voluto è la poco voce di a Luca capire la sua Fregona, storia, però di caporedattore fatto del tutte le quotidiano Alto persone che la Adige. conoscevano bene Siamo seduti su una sapevano che era panchina, uscita. anzi due panchine limitrofe, per via del distanziamento, al Parco delle Religioni, a Bolzano. Abbiamo il fiume Isarco da un lato e dall'altro, a pochi metri dal viale di accesso del parco, c'è l'ingresso principale di Villa Armonia, la casa di riposo dove Maria Silvia Spolato ha passato gli ultimi 10 anni della sua vita. E dove è morta il 31 ottobre del 2018. Luca mi sta raccontando del momento in cui ha scoperto che quella donna dall'aria vagabonda, che come tutti a Bolzano conosceva di vista fin da ragazzino, aveva una storia che valeva la pena di essere raccontata. A quel punto ho fatto una piccola ricerca su internet, contemporaneamente uno dei nostri fotografi, che all'epoca era Lorenzo Zambello, mi ha segnalato la stessa cosa perché anche lui aveva la mamma nella stessa casa di riposo e da lì ho trovato dei vecchi riferimenti di libri degli anni 70 a Maria Silvia Spolato e quindi da lì ci siamo resi conto di avere una storia incredibile tra le mani. Luca aveva ricollegato subito quella storia a quella donna senza tetto che per anni da ragazzo aveva visto per le vie della città. Allora, io me la ricordo molto bene perché all'epoca ero un ragazzino, un ragazzo e per molti anni l'ho vista. E lei non potevi non notarla e la vedevi con queste sporte della spesa, con delle valigie piene di libri, di giornali. La vedevi seduta sulle panchine delle passeggiate lungo il Talaro oppure in Piazza Walter mentre faceva. Io questo ricordo che faceva i cruciverba. E poi la trovavi anche in biblioteca. Tutti sapevamo che era una persona che doveva avere probabilmente un passato importante alle spalle, però lei non raccontava quasi mai nulla. Ecco, questa cosa che Luca ha detto, il fatto che fosse evidente che quell'anziana signora che girava con le sue borse piene di libri e il suo cruciverba avesse un passato importante, ma che di quel passato non parlava mai, è una cosa che ripeteranno tutte le persone che ho incontrato qui a Bolzano. Persone che hanno conosciuto Maria Silvia solo per poco, o le sono state vicine per anni e le hanno voluto bene. Il suo passato camminava con lei per le vie della città. Come una presenza ingombrante, ma completamente silenziosa. Mi chiamo Sara Poma e questo è Prima, la storia della prima donna ad aver fatto un coming out pubblico in Italia. È la storia di come stavano le cose prima. E di come, grazie al coraggio di alcuni e al sacrificio di molti, sono diventate più semplici, anche per me. Sono venuta a Bolzano con Ilaria e Alessio, con cui da mesi lavoro per ricostruire questa storia, per conoscere le persone che sono entrate in contatto con Maria Silvia nell'ultima porzione della sua vita. C'è chi è stato vicino a lei per anni e può dire in qualche modo di averla conosciuta, o chi l'ha sfiorata per un secondo, ma quel secondo è rimasto cristallizzato nel tempo. Come per esempio Lorenzo Zambello, il collaboratore che Luca citava poco fa. Che ha scattato la fotografia, quella che fu pubblicata prima sull'Alto Adige e poi venne ripresa da riviste e quotidiani. La foto che, dopo la morte di Maria Silvia, ha contribuito senz'altro a far riaffiorare la memoria di chi era stata. Il progetto fu di fotografare tutti i residenti della casa di riposo. Io pensavo che lei dicesse di no. Invece si è fatta avanti lei, gli ho chiesto, vuoi essere fotografata? Sì, l'ha fatta. Sì, ed è venuta con la sua sedia a rotelle, ta, ta, ta, ta, si è messa in posa e anzi mi ha chiesto, sono venuta bene? Sì, ho detto, sei venuta bene. Quel primo piano in cui Maria Silvia guarda in camera con uno sguardo un po' interrogativo, forse scocciato, e indossa un berretto di lana blu acceso, è un momento preciso nel tempo, il frammento di una vita che era quasi arrivata alla fine. Ma c'è tutta quella porzione sommersa e nascosta prima della foto che voglio provare a ricostruire. Quel ritratto è del 2018 e viene scattato poco prima della sua morte. Ma Maria Silvia ha una presenza fissa a Bolzano, almeno fino dagli anni Ottanta. Bolzano era la meta di quel sistema ingegnoso che aveva inventato per non dormire per strada. Prendeva il treno da Roma e percorreva tutta l'Italia, arrivando fino a quassù, ai luoghi che aveva conosciuto fin da bambina, quando la sua famiglia aveva una casa di vacanza sulle montagne, qui nei dintorni. C'è una persona che negli anni Ottanta comincia a notare quella strana donna che viaggia di notte e possiede un abbonamento. Si chiama Hilda Siller e all'epoca lavora all'ufficio informazioni della stazione. Anche suo fratello Sergio fa il ferroviere e spesso entrambi fanno il turno di notte. Tanti anni fa che io lavoravo in stazione e ci siamo conosciute così che lei ha chiesto informazioni perché lei aveva un abbonamento. Un abbonamento che le consentiva di andare a Bologna perché c'erano ancora i treni della notte e così lei dormiva sul treno, in poche parole. E avendo questo abbonamento, era nominativo e vedevo come si chiamava e quanti anni che aveva perché era nominativo. E così l'ho conosciuta. Aveva sempre i calzini rossi, i scarponi marron che tenevano e poi un mantello d'inverno che ha cucito con lei. Mantello cucire a mano, cioè non è una cosa da niente. Hilda mi ha raccontato con molto dispiacere che poi quel mantello cucito a mano finirà per essere buttato via quando Maria Silvia verrà ricoverata anni più tardi. Ma torniamo a quel periodo imprecisato negli anni Ottanta. L'ha conosciuta anche mio fratello, che anche lui faceva sempre le notti, e che lì in pratica c'erano tante persone che erano senza tetto, che stavano in stazione. Anche allora li buttavano fuori, purtroppo. E lui aveva una caffettiera così grande, le faceva per tutti il caffè. Siamo andati a prendere il caffè. E mi ha detto anche, guarda che io da sola non me lo danno. Come non me lo danno? Ho detto, ma mica chiedi elemosina, lo paghi? Certamente, ma non me lo danno. Ma perché? Perché lei non si poteva lavare, no? E aveva questo problema di lavarsi. E allora ho detto, beh, adesso andiamo insieme, vediamo se no. E allora siamo andati insieme e gli ho detto, cappuccino per la signora e caffè per me. Ah, non ha detto più niente. Da quel caffè, quello offerto nella caffettiera gigante, quello consumato insieme al bar, si può dire che fra Hilda e Maria Silvia nasca un patto di fiducia e amicizia, che si allarga poi anche al fratello. Nonostante quella che Hilda descrive come una paura profonda di Maria Silvia nei confronti degli uomini. All'inizio lei aveva un po' di problemi perché non accettava gli uomini. Aveva proprio, guarda, stai attenta per favore quando vai a casa che ti danno un pugnale nella pancia, anche a me ne hanno dato, no? Ma no, ho detto, guarda, non credo proprio, no, lo fanno, insomma aveva questo terrore. Ma lei, secondo te, aveva subito delle violenze in quegli anni in cui stava in giro da sola? Penso proprio di sì, però non mi ha mai parlato, io non volevo, diciamo, aprire, magari era una ferita, no? Ricordare, e questo non lo volevo fare. In ogni caso è proprio Sergio, il fratello di Hilda, ad aiutare concretamente Maria Silvia quando comincia ad essere provata dal suo girovagare. In poche parole, però, dopo andava sempre peggio. E allora lei è andata nelle case, in una casa dove che aiutano le donne. E quello, a dire la verità, ha guardato mio fratello E allora sono andata a trovarla e la prima cosa che lei mi ha detto: adesso ti voglio fare vedere la mia lavatrice, no? Perché è una cosa psicologica, no? Che lei si può lavare, no? Non è che non voleva, ma non c'era tanta la possibilità, diciamo, no? E allora era lì e l'ho tante volte fatte le visite, anche dopo il mio lavoro, no? Con la divisa, no? Che ho detto, la mia amica lavora in ferrovia. Quando aveva compleanno, all'inizio non voleva mai dire di anni, però poi ha detto, adesso però andiamo a prendere un bel champagne. Ma certo che andiamo a prendere un bel champagne, no? Fra le tante cose che Hilda mi ha raccontato, c'è un altro aneddoto, oltre a questo dello champagne, che mi ha fatto letteralmente capitolare. Allora, l'ufficio informazioni è tutto pieno di gente in estate, tutti vanno di qua e di là, al mare, dappertutto, e chiedono informazioni. E allora lei entra, Hilda, aspetta, c'ho dei bellissimi giornali sexy, ma ad alta voce, tutto pieno di gente, no? Guarda, li vuoi, li vuoi vedere? Guarda, sono così interessanti. E tutti che si guardavano, ma tutto pieno l'ufficio, eh. Lei veniva e ha detto, guarda, questi te li voglio dare, tienili. No, ha detto, tienili te, no. Li ho trovati, ma guarda cosa la gente butta di tutto via. Insomma, che ridere. Questo mi ricorderò sempre, è pazzesco. Ecco, qui è stato un altro di quei momenti in cui ho sentito fortissimo un affetto profondo per Maria Silvia, ovvero per una persona che non ho mai conosciuto, ma che ho immaginato ogni giorno per mesi della mia vita. L'ho immaginata spesso persa nella sua solitudine, sempre più isolata e avvolta nei suoi pensieri ingarbugliati. Ma sapere che ci sono stati anche questi momenti lievi, in qualche modo mi conforta. Come mi conforta sapere che in fondo non era mai veramente sola. C'era Hilda e c'erano i suoi libri e anche l'enigmistica di cui era fanatica. Allora, lei sapeva, diciamo, la Divina Commedia, sapeva i classici, li sapeva. Il suo posto era la biblioteca. La biblioteca è una cosa proprio super. Biblioteca per lei. E per questo, portami per favore la carta da disegno A4, poi le matite, e ci teneva tantissimo, diciamo, perché faceva poi con quel blocco anche tutti quei rebus, no, che c'erano nella parole crociate, no? Quando chiedo a Hilda se Maria Silvia parlasse mai di quando era giovane, di chi era stata, mi ritorna l'immagine di quel passato ingombrante ma muto. E mi parlava che andava tanto sui montagni, scalava anche, che aveva la macchina, un maggiolino, quando era giovane, no? Però non mi ha mai parlato della sua famiglia. Provo a riprendere il filo. Siamo arrivati nell'ultima porzione di vita di Maria Silvia ed è l'ultima occasione per me di mettere insieme i pezzi, di ricomporre il ritratto di una persona immaginata, che si è rivelata molto più complessa dell'idea che mi ero fatta all'inizio. Dopo alcuni anni a casa Margaret, quella che Hilda chiamava la casa delle donne, Maria Silvia, per limiti di età, non può più rimanere lì. Ha già più di 70 anni. Viene così trasferita a Villa Armonia, una casa di riposo per anziani. Lì trova un'altra persona di cui a poco si fida. Si chiama Elisabetta, per tutti. Betty, ed è l'animatrice del centro. Maria Silvia è entrata in struttura nel 2006. Nel luglio del 2006. E devo dire che inizialmente lei è stata una presenza invisibile. perché aveva tantissima diffidenza verso di noi, per cui ha preso la struttura solamente come un dormitorio, un posto di passaggio, e a volte neppure quello, nel senso che a volte lei non tornava neanche a dormire, per cui stava fuori tutta la giornata e magari si protraeva per 2 o 3 giorni. Ancora una volta la leva che la muove è la cultura, il cinema e la fotografia. Betty mi racconta un aneddoto abbastanza buffo. Immaginate un cineforum in una residenza per anziani in cui vengono proiettati film di Bergman o Godard. Ecco. Aveva questa iscrizione a un centro, diciamo, di noleggio, e quindi lei andava, si prendeva queste videocassette, tantissimi film molto molto impegnati, cioè molto per persone che devono capire qualcosa, insomma. Infatti lei proponeva sempre questi film anche per i nostri residenti nel nostro momento cinema, però erano film che erano sempre poco adatti, insomma, per il livello culturale dei nostri residenti, no? Anche se probabilmente non è mai riuscita a organizzare una visione collettiva di, che ne so, il posto delle fragole al centro anziani, è grazie alle sue passioni, la fotografia soprattutto, che Maria Silvia comincia a relazionarsi con le persone che ha intorno. Per esempio, quando ha cominciato a chiedermi la macchina fotografica per immortalare dei momenti, delle attività di animazione, così, lei magari faceva delle foto ad alcuni residenti che stavano facendo alcune attività, diciamo una relazione un po' così. Con me, per esempio, lei aveva fatto delle foto artistiche, con io seduta a questo scrittoio, in varie pose, così, davanti, da dietro, così. E lei lì era molto contenta, insomma, la vedevi che mi indicava come dovevo mettermi, vestirmi, tutto quanto, o svestirmi la spalla. Io non la vedevo come una persona anziana, anche per tutti i suoi interessi particolari, così. Non assomigliava a nessuno dei residenti che io ho visto passare, insomma, in questa struttura. A Bolzano ha incontrato anche Paolo, il musicoterapista di Villa Armonia. Anche se ha avuto pochi contatti con Maria Silvia, se la ricorda bene, soprattutto in occasione di un 8 marzo. Lì c'è qualche ricordo, diciamo, quello più emozionante per me, che conserva ancora una registrazione, era per una festa dell'8 marzo, e io non sapevo canzoni per la donna, dicevo, non ho proprio idea. Ed è stata la Betty, l'animatrice, che mi ha detto: ma prova, la buttata lì, prova a sentire da Maria Silvia se viene in mente qualcosa. Io ho detto: provo. E improvvisamente le è venuto questo ricordo, e dice: sì, sì, c'è una canzone. Ha cominciato a cantarla, io non l'avevo mai sentita. E poi ha detto: questa è la canzone delle femministe di Via Pompeo Magno. E c'è anche, ho ottenuto la registrazione di questo. E questo è stato proprio un incontro diretto, perché di solito lei appunto aveva un po' di difficoltà con gli uomini. Negli anni passati a Villa Armonia, le visite frequenti sono quelle di Hilda, la sua amica ferroviera, che ancora oggi la va a trovare al cimitero e le porta la settimana enigmistica. Ma c'è anche una ragazza di nome Sara, che almeno una volta all'anno va a farle visita. Come è venuta a sapere dell'esistenza di Maria Silvia è un percorso tortuoso, seguitemi. Ha scoperto della sua esistenza attraverso l'associazione LGBT che frequenta, perché nel frattempo a Roma qualcuno che faceva parte del passato di Maria Silvia, Massimo Consoli, l'attivista gay che era andata a trovare nel suo viaggio ad Amsterdam nel 1971, aveva lanciato un appello per scoprire dove fosse finita. Insomma, le voci erano cominciate a girare e qualcuno aveva scoperto che Maria Silvia si era stabilita a Bolzano. E fra le persone che volevano che sapesse che qualcuno si era ricordato di lei, c'era anche una storica del lesbismo fiorentina, Nerina Milletti, che per caso conosceva una ragazza di Bolzano, Sara, che ora è qui davanti a me. La prima idea era quella di farle presente che come lesbiche, come gruppo di donne, ci eravamo messe insieme in questo gruppo all'epoca con diverse donne del centro e nord Italia, e volevamo farle presente che esistavamo e che la ricordavamo, e quindi abbiamo pensato di farle un pacco dono per Natale. Io venivo a recapitarglielo qui alla casa di riposo, per cui io ogni anno facevo la spesa apposta per creare questo cesto, che ogni anno era differente. Ogni anno la conoscevo un po' di più e quindi vedevo di magari se aveva bisogno di qualcos'altro oltre ai soliti dolci, insomma, che erano tipici di Natale. E quindi ci mettevo dentro tipo dei quaderni, delle penne colorate, perché so che lei aveva questa passione, scriveva tantissimo. Quando le recapitavo il dono voleva ricambiare e quindi voleva regalarmi qualcosa di suo. Ovviamente io dicevo sempre che ce l'avevo già, perché non volevo toglierle nulla, non mi pareva il caso. E rimanevamo un po' nella sua camera a chiacchierare e la vedevo scartare questo paccone, perché era anche bello grande così, che sembrava proprio una bambina, una bambina col pacco a Natale. Come Hilda, qualche volta Sara va al cimitero a trovare Maria Silvia. Anzi, con la sua associazione, mi ha spiegato, vuole lanciare un crowdfunding per comprare una lapide più bella di quella che c'è ora. Le chiedo allora se può accompagnare me, Ilaria e Alessio a visitarla. Ci diamo appuntamento al cimitero, che si trova a un paio di chilometri, e sulla strada compriamo una piantina di violette e una settimana enigmistica. E guardavamo gli aceri, che bellissimo. Non sono una di quelle persone che amano andare in pellegrinaggio nei cimiteri, ma il cimitero di Maso della Pieve è davvero bellissimo. Ah, sì. Ilaria e Alessio sono rapiti dagli aceri giapponesi. Io dalla montagna che si staglia sopra le nostre teste. Camminiamo per almeno 10 minuti in cerca della tomba di Maria Silvia. Ovviamente io penso subito al film di Verdone. Fino a che, da lontano, nonostante la mia miopia, riconosco una settimana enigmistica appoggiata su una lapide. Eccola, vedo la settimana enigmistica. Abbiamo fatto la settimana enigmistica, sì, con la sua foto qua. Ah! Guarda! No, bellissima. Ok, allora provo a descrivere. C'è una tomba molto semplice, come ci diceva Sara, ma molto bella, secondo me. E davanti c'è la sua foto, la foto quella della che ha scattato Lorenzo, che è finita sul giornale, che ha fatto il giro quando Maria Silvia è morta. E appoggiata dietro invece c'è un quadretto con una settimana enigmistica in cui qualcuno ha messo la sua foto al posto del quadrante del personaggio famoso, e tutto ciò è veramente bello. E quindi niente, le lasciamo la piantina di violette che abbiamo portato, ecco, e anche le lasciamo la settimana. Il numero attuale. Del mio viaggio a Bolzano mi porto dietro l'emozione di vedere quella tomba così semplice, umile ma bellissima, in mezzo ai ciliegi e con la montagna così vicina, come a proteggerla. Mi porto dietro anche la memoria di chi, in quegli ultimi anni, è stata più vicina a Maria Silvia, come Hilda. È proprio una vera ricchezza di aver conosciuto lei. Una vera ricchezza. Questo posso veramente dirlo ad alta voce. Perché sapeva così tante cose, non parlava bambera, no? Poi di un altruismo ti dava anche le ultime cose. Ci sono poi delle parole che mi sono rimaste impresse, ancora più impresse di altre. Curiosamente le ha pronunciate Paolo, il musicoterapista, il cui incontro con Maria Silvia è stato solo un incontro sfiorato. Non si può dire l'abbia conosciuta da vicino come Hilda o Betty o le persone che le furono amiche nelle porzioni precedenti della sua vita. Eppure c'è un episodio che mi ha raccontato che cristallizza perfettamente l'immagine che ho di Maria Silvia, quella che mi porterò dietro dopo questi mesi trascorsi pensando a lei ogni giorno. C'è stato un incontro, c'era un bel gruppo, casualmente c'era una seggiola vuota che è venuta verso di me perché io ero lì, suonavo un valzer, Strauss, non so cosa. E poi dopo ha visto che c'era una seggiola libera e si è seduta. E mi ricordo guardava persona per persona e poi dopo ha cominciato a fare delle fotografie. E poi dopo un po', dopo 4-5 minuti, sempre come guardando tutti, si è alzata e come anche lì suonavo qualcosa, sempre un valzer, come girando, guardando tutti, è uscita fuori. È stato proprio, non so, come... Adesso in questo momento mi viene l'immagine come di una farfalla. Sono venuta qui nella piazza dove è iniziato tutto. Sono a Campo dei Fiori, c'è il mercato come tutti i giorni, e in mezzo c'è la statua di Giordano Bruno ed è lì che venne scattata la famosa foto di Jane Fonda, quella col pugno alzato. Mi piacerebbe sapere dove, in che angolo della piazza si trovava Maria Silvia quando invece venne scattata la sua di foto. Ovviamente non è possibile saperlo. Allora me la immagino là in fondo o laggiù sulla sinistra oppure qui di fianco a me. Una figura bellissima e fiera nella sua evanescenza. Allora siamo fregate e senza libertà siamo in tante, siamo più della metà, lo siamo sempre stati in questa umanità. Canzone dell'8 marzo delle femministe di via Pompeo Magno. Questa era l'ultima puntata di Prima, una produzione di Spotify Studios in associazione con Cora Media. Executive producer Jacopo Penso. La cura editoriale è di Ilaria Orru con il supporto di Alessio Olivieri. Registrazione, sound design e musiche di Francesco Ferrari per Frigo Studio. Il fonico in presa diretta è Andrea Garofalo. La sigla originale è stata scritta e suonata dai Berlinist. Sono tante le persone da ringraziare, soprattutto quelle che strada facendo mi hanno incoraggiato e dato consigli preziosi. Sapete chi siete. Ringrazio Mario Calabresi per aver creduto in questa storia fin da subito. E ringrazio anche tutte quelle e quelli che si sono seduti davanti a me e hanno voluto condividere un ricordo, un pensiero su Maria Silvia Spolato. E soprattutto le persone che sono venute prima, Maria Silvia inclusa, e che hanno rischiato qualcosa per rendere il nostro presente più accettabile e giusto.